Il MEMRI è un istituto politico, un istituto di ricerca politica che ha sede a Washington e che ha un monitoraggio complessivo di tutto quello che accade sul mondo arabo. Tutti i giornali, tutta la stampa, tutti gli intellettuali vengono monitorati dal MEMRI, che rilancia poi in tutto il mondo e tradotto in molte lingue gli interventi, gli articoli, le analisi, gli editoriali degli intellettuali arabi. In questo caso ci occupiamo di un'intervista che è stata rilasciata a una televisione libanese, un'intervista esclusiva da parte di Walid Jumblad, che è uno dei leader drusi del mondo politico e sociale libanese, un uomo molto influente in Libano che fa parte di quella borghesia, potremmo chiamarla così, che è uscita in qualche modo vincitrice dalla sanguinosa guerra civile libanese. La cosa che più sorprende in questa intervista è che riflette in un certo qual modo un sentimento ormai a piene mani diffuso in tutto il mondo arabo, è che Jumblad, oltre che essere un leader, attenzione, laico, Jumblad non è un leader religioso, esordisce dicendo: è ora di morire da martiri, cioè evidenzia in qualche modo una saldatura tra due anime del mondo arabo, per meglio dire del mondo libanese, ma che sono certamente una spia di tutto il mondo arabo, tra una tradizione laica, persino borghese del mondo arabo e il fondamentalismo religioso così come lo abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Jumblad dice basta, basta con gli Stati Uniti, basta con Israele, non accettiamo più tavoli di negoziato con Tel Aviv, non si può in nessun modo colloquiare con il paese del grande Satana, cioè il paese della Casa Bianca e di Bush, è ora di morire da martiri. Un incitamento, una fatua potremmo dire, anche se pronunciata da un esponente della società civile, in qualche modo dirompente per gli effetti che può avere proprio per questa saldatura. Jumblad in questa intervista ammette addirittura, forse in maniera più o meno revisionista, anche qui ci sono mille opinioni e mille ancora di più, persino la veridicità degli attentati dell'11 settembre a New York, chi li ha compiuti, perché non è stato dato l'allarme prima, sottolineando quasi che possa essere, come da più parti si sottolinea, addirittura dall'indomani degli attentati, persino una messa in scena ordita dagli Stati Uniti per poter colpire, per poter avere giustificazione di colpire il mondo arabo. Insomma, gli attentati delle torri potrebbero essere stati studiati a tavolino, secondo il pensiero di Jumblad, dal Israele e dagli Stati Uniti per avere poi mano libera e fare un macello nel mondo arabo. Questa è una teoria revisionista che sta in piedi, non sta in piedi, fa parte della circolazione di questi miliardi di parole che tutti i giorni ci sono nel mondo. Comunque non è tanto questa affermazione che circola ormai da parecchio tempo e della quale naturalmente non abbiamo nessun tipo di rispondenza, di veridicità, quanto, ripeto, l'importanza di questa saldatura tra una società civile, che è quella libanese, e il fondamentalismo religioso musulmano libanese, ma in generale del mondo arabo, con un leader, appunto il leader dei drusi, Walid Jumblad, che dice è ora di morire da martiri. Roberto Di Nunzio, reporter associati per Amisnet Radio.